5, nulla nulla. Avanti la portante. L'ho vista, adesso sì. Avanti con questa portante, a parlare sì, è inutile mettere la portante, aiuto. Venite qua che non ci disturbi per niente con questa portantina. Alla tutti quei disastri, sono tutti al mare. Anche loro si dovranno riposare, no? Dopo tutta la settimana di lavoro, certo dovranno andare in famiglia al mare. Già va bene, va. Già va bene tutto. Allora, cosa facciamo? Sono le tre, adesso sai cosa faccio io? Stamattina mi sono passato tutta l'aspirapolvere bene, che c'era tanta quella polvere a terra allucinante. E proprio il finestra aperto qua, la polvere entra, ma di brutto anche, porca miseria. Non è che posso tenere le finestre chiuse, no? Manco per il sole. Mi sono passato l'aspirapolvere, ho rotto tutta la polvere che c'era. Adesso ho fatto lo straccio. Adesso mi metto a lavare in casa, da una bella passata di acqua, prendo il secchio, lo tiro a terra, pieno d'acqua, E mi è stata una buona idea, vedi? Ho pure attacco direttamente la pompa. Attacco la pompa, inizio prima da una casa all'altra, poi prendo quella scossa e prendo e butto verso le scale, no? Ci potrebbe fare una bella passata con la pompa, almeno lavi bene, invece di stare con questo secchio avanti indietro, con questo traccio, mara di Dio. Esattamente quello di sotto, no, che tocca lavare anche, no? Così vi do una passata di straccio, così almeno asciuga bene, detto che c'è caldo anche, e poi mi faccio un riposino, dai. Un riposino. Dopo tra un paio d'ore, qui sono le 3, 4, 5 e verso le 5 di sera. Già accendo, se c'è propagazione, allora già sono là su quel canale. Binario 15, la città di Alghero fa QRT, ci sentiamo le prossime.